Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera a Nunzia Penelope. Buonasera. Nunzia Penelope è giornalista, autrice televisiva, si occupa di economia ed è autrice del libro Ricchi e Poveri, un'inchiesta sull'Italia di oggi, come dice il libro, alla ricerca delle disuguaglianze, delle differenze, alla ricerca del denaro dove c'è e dove non c'è e sul fatto di come vivono i ricchi e come vivono i poveri. Allora, un'inchiesta, esce un'Italia forse un po' diversa da come la si vive di solito, ci sono molte disuguaglianze in Italia, Nunzia Penelope. Sì, forse questa non è una novità assoluta, le disuguaglianze ci sono in tutto il mondo, soprattutto quelle tra ricchi e poveri, certo, che sono, come dire, la base della diseguaglianza. È che la novità è che in Italia stanno aumentando, dopo molti anni in cui invece sembrava che fossero in regressione, si andasse verso, diciamo, una società più uguale, invece adesso si sono acuite. E non so se per la crisi, suppongo, ma forse non solo, anche per tutta una serie di sistemi che non sono mai stati sistemati. Ecco, diciamo, c'è una struttura di fondo dell'Italia, si è detto spesso negli ultimi mesi, gli italiani per l'80% possiedono la loro abitazione, quindi c'è una ricchezza abbastanza diffusa, però gli italiani si stanno anche impoverendo, c'è una crisi che sta incidendo su questa struttura sostanzialmente, se non ricca, comunque che non poneva grandi problemi perché le famiglie italiane sono riuscite ad acquisire una certa ricchezza patrimoniale, però c'è una dimensione invece dell'economia attuale che sta portando a un aumento delle disuguaglianze e a un aumento anche del numero di chi, possiamo dirlo, è povero. Sì, allora io ho riassunto, diciamo, il primo capitolo del libro si apre con questa frase, che noi siamo un paese ricco abitato da poveri, e questo è molto semplice da spiegare. Noi abbiamo una ricchezza privata, per l'appunto, come ricordavi prima, che è di quasi 9.000 miliardi, a fronte di un debito pubblico, che è quello di cui tutti, certo, parliamo, che ci terrorizza, di 2.000. Allora io ho fatto un esempio: se la ricchezza fosse una montagna sarebbe il K2, e se il debito pubblico fosse una montagna sarebbe il Monte Pisanino delle Alpi Apuane in confronto al K2. Il problema è che questa ricchezza è, per l'appunto, in realtà sempre più concentrata in poche mani. Io ho fatto un altro esempio, no? Ho preso i dati della Banca d'Italia per spiegargli, diciamo, a tutti. Li ho tradotti nel condominio Italia e quindi, sì, ho ipotizzato che ci sia un superattico dove vive l'1% della popolazione, e tanto per quantificare stiamo parlando di 240.000 famiglie, cioè veramente pochissime. Poi a scendere si arriva dall'attico dove abita un numero maggiore di persone, eccetera, e poi si arriva al piano terra dove abita metà della popolazione italiana. Allora, questo secondo me rende bene l'idea di come in realtà questa grande ricchezza che il nostro paese possiede, che è superiore persino a quella della Germania e della Francia, perché, certo, anche questi sono dati della Banca d'Italia, però in realtà, essendo così concentrata, non consente alla maggior parte delle persone di goderne. Ecco, quindi, no? È una, appunto, una ricchezza di questo tipo, ma poi ci sono anche dei consumi che si stanno orientando sempre più verso il basso. Per esempio, c'è una cosa molto, molto significativa: dici, nel corso del 2011 si sono vendute più biciclette che automobili. Sì, perché poi, insomma, a parte questi dati macroeconomici anche abbastanza noiosi, quello che a me interessava raccontare è appunto come vivono gli italiani oggi, no? Quindi c'è, insomma, ma ci sono i ricchi che fanno collezioni di case perché così non hanno bisogno di farsi la valigia quando traslocano, quando viaggiano, e poi ci sono appunto i poveri che si comprano la bicicletta perché ormai non tanto l'auto ma la benzina sono arrivati a livelli che non ci si può più permettere, per cui per la prima volta nella storia italiana la vendita di 2 ruote ha superato quella di 4 ruote, no? Cioè, certo. Cioè, questo però non, poi, è solo non è solo una scelta ecologica, una scelta, no, ecologica o salutistica. Esatto, esatto, capisci? È una scelta economica, così come ci sono scelte economiche che ormai appunto incidono sui consumi. Ecco, diciamo che la povertà in fondo crea maggiore povertà, cioè una scelta di consumi sempre più sobri, anche se la sobrietà è poi un valore, esatto, ma però un valore che riducendo anche la possibilità, anche un po' la volontà di consumare, è una crisi che rischia di avvitare su se stessa, esatto, quella che stiamo vivendo. Tornando all'esempio delle auto e delle biciclette, no? Uno dice che bello, andiamo tutti in bicicletta, siamo più ecologici, però guardala da un altro punto di vista: si vendono meno auto, l'industria dell'auto è la nostra prima industria manifatturiera, questo vuol dire che poi si restringono i posti di lavoro, no? E a catena, certo, si creano nuovi disoccupati. Cioè, per cui quella cosa, no, che diceva un economista di molto tempo fa, che sta tornando di moda, si chiama Keynes, che diceva: la spesa di un uomo è il reddito di un altro uomo. Ogni volta che io non compro un etto di prosciutto sotto casa, tolgo 5 euro al mio salumaio, che a sua volta li toglierà da qualche altra parte. E questo ci ha avvitato in questa recessione, che ormai è segnalata da tutti, compresa dalla Banca d'Italia, ma anche da tutti gli altri osservatori. Ecco, poi c'è un capitolo che parla di effetti collaterali della povertà, effetti collaterali che sono anche negli stili di vita, ma sono anche nelle scelte di vita. Per esempio, anche il calo demografico è un effetto collaterale: non solo si comprano meno automobili, ma si fanno anche meno figli. Si fanno meno figli. Ormai da 5 o 6 anni noi perdiamo una media di 10-15.000 nuovi nati all'anno, il che vuol dire che noi stiamo a rotta di collo andando verso una situazione in cui, per riassumere, le tombe battono le culle ogni anno e sempre di più. Questo tra l'altro avrà delle ripercussioni nei prossimi 20 anni, perché noi ci ritroveremo addirittura senza manodopera, perché non avremo più giovani che crescono e sono in grado di lavorare. Tu dirai: tanto resterebbero disoccupati. Sono gli stessi giovani che creano i problemi. Stanno calando, piccolo dettaglio, stanno calando anche le adozioni, per esempio, no? Perché le adozioni, che ormai sono quasi tutte adozioni internazionali, costano molti soldi. Io ho calcolato che costano circa 30.000 euro adottare un bambino all'estero, e nessuno si può più permettere neanche questo. Quindi è vero che ci sono effetti collaterali bizzarri in tutta Europa dovuti, certo, alla povertà. Io ne ho trovati qualcuno, per esempio ho trovato un comune della Spagna che ha affittato dei terreni ai coltivatori di marijuana per uso terapeutico. E il sindaco aveva le casse del comune vuote, perché anche loro, come i nostri comuni, sono strangolati dal patto di stabilità interno, e quindi il sindaco si è affittato i terreni, e gli danno, questi coltivatori di marijuana per uso terapeutico, gli danno 500.000 euro l'anno, e lui ci fa, non so, probabilmente ci fa gli asili nido per i suoi cittadini. Speriamo sia veramente per uso terapeutico. Sì, credo di sì. Guardiamo un po', al di là dell'analisi, che cosa si può fare? Perché indubbiamente, da un profilo sociale, da un profilo morale, la povertà va combattuta, dobbiamo cercare che tutti abbiano le stesse possibilità di vita. Che cosa si può fare politicamente, socialmente, ma anche direi psicologicamente, per uscire da questa realtà che rischia appunto di avvitarsi su se stessa, di continuare questo circolo vizioso della crisi? Beh, allora la domanda è, come dire, se io fossi il Presidente del Consiglio sarebbe una domanda azzeccata, dato che sono solo una giornalista che fa inchieste, quindi francamente io penso che il mio compito sia quello di segnalare i problemi, poi le soluzioni, francamente, vorrebbe l'opinione pubblica? Io personalmente penso che una delle soluzioni in questo momento sarebbe quella di mettere i soldi in tasca ai poveri. I soldi in tasca ai poveri si possono mettere in tanti modi, per esempio si possono mettere riequilibrando il welfare, dando maggiori servizi. Per esempio, prima citavamo i bambini che non nascono. Uno dei motivi è che se tu fai un bambino oggi non hai i soldi per pagarti un asilo nido, e gli asili nido pubblici non ci sono, devi pagare quelli privati, quindi non te lo puoi permettere e lo escludi. Quindi questo è un sistema. Poi c'è un sistema molto più rapido, che è quello di mettere proprio soldi veri, non attraverso, diciamo, servizi sociali. Quello che alcuni chiamano il salario di cittadinanza, altri chiamano il salario minimo garantito, insomma, cose del genere, su cui c'è un dibattito in Italia, che però è molto sempre ideologico, ci si scontra sempre: no, io lo voglio così, io lo voglio cosà. Io sono andata a vedere cosa hanno fatto nel resto del mondo, e secondo me è sempre molto educativo andare a vedere cosa fanno gli altri. Qual è l'esempio virtuoso? Allora, l'esempio virtuoso è il Brasile, no? Il Brasile, che era un paese di, come sappiamo, povertà, favelas, eccetera, adesso invece è un paese che ha un tasso di sviluppo altissimo. Il Brasile ha dato un salario minimo sociale a 25 milioni di brasiliani, che sono circa un quarto della popolazione, diciamo, che erano i più poveri. Gliel'ha dato a certe condizioni, per esempio che tutti i figli di queste famiglie a cui veniva dato venissero mandati a scuola. In questo modo ha risolto anche un problema di analfabetismo, bambini di strada, eccetera. Il Brasile, grazie a questa spesa indubbiamente che hanno fatto, adesso ha un tasso di disoccupazione del 6%, noi, come sappiamo, ce l'abbiamo del 12%. Allora, secondo me quello forse era uno sforzo che noi potremmo cercare di fare per aiutare quelle famiglie italiane, che io poi qui quantifico, stiamo parlando, le famiglie povere sono oltre 3 milioni e le famiglie molto povere sono 1,5 milioni, famiglie, ogni famiglia sono diciamo 2,5 persone, per cui abbiamo un numero di poveri enorme, forse se noi a questi dessimo un po' di soldi in tasca li andrebbero a spendere, e spendendoli, certo, sempre per la legge di Keynes, rilancerebbero un po' i consumi e quindi le aziende, l'economia, bla bla bla. Sì, ecco, il problema forse è dove andare a trovare questi soldi per metterli in tasca a queste persone, ma qui si riavvierebbe un dialogo. Sì, la voglio fare molto breve, si potrebbe anche seguire la famosa strada della tassa patrimoniale sui grandi patrimoni, che anche quella è una strada che stanno seguendo in alcuni paesi del mondo. Noi non siamo riusciti a fare la piccola patrimoniale sui piccoli patrimoni, ma e quindi... perché, come disse l'ex premier Mario Monti quando gli posero questo problema, non possiamo fare la patrimoniale perché non sappiamo dove sono i patrimoni. Infatti, e quando li scopriamo magari non sono tanto in Italia. Grazie a Nunzia Penelope. Tutto quello che volete sapere sui ricchi e poveri poi lo trovate nel suo libro, un libro appunto, un'inchiesta di Nunzia Penelope, Ricchi e Poveri, edito da Ponte alle Grazie, sono 266 pagine per 13,50 euro. Grazie a Nunzia Penelope di essere stata con noi, grazie a Valentina Magri in redazione, a Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buon sabato sera.